bufala in tavola di Nicoletta Carbone. Ce l'aiuta, buongiorno, benvenute, sono felice di essere qua con voi, ma c'è di più, perché alla bufala in tavola raddoppiamo, facciamo felice anche la nostra mente. Del resto, come si dice, due meglio di uno. Buonissima domenica, forza, forza, su, accomodatevi che c'è posto, ma posto a capotavola l'abbiamo riservato per un nostro amico speciale, il dottor Stefano Erzegovesi. Noi lo conosciamo come il nostro medicuoco quasi cuoco. Dottor Erzegovesi, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buona domenica a tutti. Buona domenica, è direttore del Centro Disturbi Alimentari dell'Ospedale San Raffaele di Milano, ma anche scrittore. Infatti, alla bufala in tavola il dottor Erzegovesi è venuto accompagnato dal suo ultimo libro, La dieta della mente felice, freschissimo di stampa. Dottor Erzegovesi. Ecco, sì, l'idea è... Pensiamo al nostro modo di mangiare come qualcosa che comunque può influire molto più di quanto si possa pensare anche sul nostro benessere mentale. Quindi pensiamo che va benissimo mangiare bene per curare la salute, per avere un buon peso, ma anche per combattere lo stress, per avere un umore più stabile, alla fine anche per essere un po' più pacifici. Noi spesso parliamo di gentilezza e di pace quando parliamo di alimentazione alla bufala in tavola. Ecco, questa può essere un'occasione per considerare proprio un modo nuovo di mettere il cibo nel piatto, anche pensando allo stare bene con sé e con gli altri. Abbiamo lanciato l'iniziativa insieme delle Siamo gentili con le zucchine. Ma di questo parleremo ancora e non è finita, perché adesso ci sono anche i fiori di zucchina che sono squisiti. Allora, assolutamente, sanissimi. È vero, sanissimi, magari pastellati con un po' di farina di ceci. Va bene. Dottor Erzegovesi, le piace? Senta un po', piace. Dottor Erzegovesi, lei non è che può sedersi a capotavola a portare il libro così senza farci una dedica speciale a noi che praticamente siamo di famiglia, che abbiamo seguito le sue ricette, siamo diventati fan, insomma, va bene il libro, però che cosa ci ha scritto su quel libro per noi della bufala? Dai, proprio diciamo un fuori menù dedicato. Dai. Allora questo sì, volentieri, ma il fuori menù dedicato proprio da che non c'è nel libro, ma che mi piacerebbe scrivervi sulla prima pagina del libro, è quella che io chiamo la salsa gassata con tre S. Senta, ma lei perché tutte queste S proprio con me? È un po' cattivello, eh? Ma perché adesso vedremo le iniziali, in effetti, ma anche per la mia S, che non è delle va bene, migliori. Allora la dico bene, gassata. Con tre S di Savona, esatto. Okay. Allora, cos'è questa, così, questo espediente per tenerci a memoria? Un modo molto saporito e contemporaneamente stuzzicante, ma anche salutare, di condurre appunto i piatti per una mente più felice, quindi le verdure, i cereali integrali e i legumi. Ogni singola iniziale di questo gassata presuppone quello che poi è l'ingrediente della nostra salsa. Quindi G sta per grasso e quindi dobbiamo mettere il nostro magico e assolutamente sano olio extravergine d'oliva, quindi qualcosa che dia una componente grassa, che vuol dire trasportare le vitamine, trasportare gli aromi e quindi rendere più piacevole anche l'aroma che sta insieme all'olio, quindi può essere l'aroma del riso, l'aroma della zucchina o l'aroma di un altro cibo che abbiamo nel piatto. A sta come acido e quindi qualcosa che dia una punta di acidità. L'acidità forte noi la percepiamo come qualcosa di sgradevole al palato, l'acidità lieve invece la percepiamo come freschezza e quindi un po' di aceto di vino bianco o rosso, un po' di aceto di riso, un po' di succo di limone, comunque qualcosa di acido. Se vogliamo sbizzarrirci, anche un'acidità di un frutto fresco, quindi magari possiamo mettere nell'insalata una mela verde a dadini, quindi qualcosa che dia freschezza e dia questa punta di spinta in più. La prima S, visto che abbiamo tre S di fila, la prima S sta per sapido e quindi dobbiamo mettere qualcosa che sia salato. Sì. E quindi tipicamente un pizzico di sale, se vogliamo sapori un pochino più esotici possiamo mettere un pochino di acidulato di umeboshi, che è un condimento acido e salato insieme, quindi prendiamo una A e una S insieme. La seconda S sta per saporito. Citiamo spesso la bufala in tavola e il gusto umami, che si traduce più o meno come saporito in italiano. Il gusto saporito può essere tipo la salsa di soia, può essere un po' di parmigiano grattugiato, può essere una granella di nocciola leggermente tostata, può essere un po' di cipolla o di scalogno caramellato, quindi qualcosa, può essere del concentrato di pomodoro, qualcosa che c'entri col gusto umami, quindi col saporito. Può essere anche qualche funghetto tagliato e messo comunque dentro nel nostro piatto. La terza S? Terza S sta per speziato. Speziato. E quindi dobbiamo dare una nota che i recettori della nostra bocca sentano come una nota che sta tra lo speziato e il piccantino, quindi può essere un'erba aromatica, può essere una spezia, può essere un pochino di zenzero piuttosto che di rafano. Sbizzarriamoci, perché poi la dieta mediterranea, ma a questo punto le cucine del mondo ci danno una varietà di speziato enorme. Mi raccomando, sullo speziato siate gentili con la vostra bocca, non solo con le verdure, cioè non esagerate con uno speziato che a quel punto copre non tutto. Esatto, copre tutto e non andrebbe invece a esaltare i sapori dei singoli componenti. Dottore Arzegovesi, le tre S ce le siamo tolte, finalmente arriviamo alla A. La A la pronuncio benissimo. La A è perfetta, vocale aperta, anfipatico, nome strano, che non è antipatico, ma significa anfi, due cose, patico, cioè è amico di due cose. Le sostanze anfipatiche sono le sostanze che permettono di tenere insieme grassi e acqua, e quindi pensiamo al tuorlo d'uovo nella maionese o qualsiasi altra sostanza emulsionante. Sostanza anfipatica per eccellenza può essere la salsa tahina, che è una salsa, una crema di sesamo, piuttosto che una crema di mandorle o di nocciole. Mettiamocene una puntina, perché questo ci renderà una cremosità assolutamente piacevole e simile, seppur molto meno grassa, alle maionesi. Vediamo la T di tocco. Tocco vuol dire dobbiamo usare le mani, quindi dobbiamo sbattere questa salsina per creare questa cremosità di cui dicevamo. E da ultimo A di acqua. Cos'è la cosa intelligente di questa salsina? Che noi, a proposito di mente. A proposito di mente intelligente, esatto, anche la salsina ha la sua intelligenza. Noi mettiamo questa acqua, per cui mescolandola la sostanza anfipatica tiene insieme grasso e acqua, quindi noi avremo una sostanza che sarà come cremosità molto spessa e molto ricca, ma dove più della metà di quello che metteremo nel nostro piatto sarà acqua, e quindi assolutamente leggera per quelli che sono i nostri bisogni di salute. Gassata, voilà. Perfetto, con tre S per una mente felice, ma anche per una pancia contenta. Noi ci fermiamo e riprendiamo subito, tra poco. La bufala in tavola. Tutti a tavola, e oggi alla tavola della bufala in tavola vi proponiamo un menù suggerito dalla psichiatria nutrizionale, che è una disciplina relativamente giovane che dimostra come a tavola, scegliendo gli alimenti giusti, si possono prevenire non solo delle malattie degenerative, ma anche in qualche modo ritrovare il buon umore, la felicità, ridurre lo stress, l'ansia e la depressione. Dottor Arzegovesi, ho sintetizzato o mi sono allargato? Perfettamente. La psichiatria nutrizionale è un qualcosa che fino a pochi anni fa veniva considerata una cosa un po' da matti, cioè poter dire ma com'è possibile che tu mangiando bene puoi cambiare il funzionamento del cervello, proprio perché il cervello si immaginava come una specie di luogo isolato e quindi pochissimo accessibile agli stimoli come possono essere gli stimoli di ciò che mangiamo. E in questo senso tutto quello che è prodotto vegetale ricco di fibre, ma che alla fine l'alimentazione mediterranea di cui parliamo spessissimo alla Bufala in Tavola continua ad essere un modello sempre più confermato scientificamente come un modello con una specifica correlazione anche con buon umore, resistenza allo stress e anche buon invecchiamento cerebrale. Quindi in quest'ottica permettiamoci di fare un'alimentazione mediterranea, però attenzione, a base vegetale vuol dire che tutto quello che appartiene al mondo delle fibre e quindi al mondo vegetale dobbiamo metterlo nel piatto in una quantità che probabilmente a cui non siamo abituati, ma che va assolutamente cercata e trovata. Una premessa è fondamentale, naturalmente, e lei la racconta bene nel suo libro, che non esiste il superfood magico per il nostro cervello, ma esiste un insieme di sostanze benefiche proprio che modula il funzionamento del cervello attraverso dei meccanismi differenti. Io partirei da qua, dottor Erzegovesi, perché partendo proprio dalla conoscenza di questi meccanismi noi arriviamo poi al piatto. Cominciamo a pensare come un'alimentazione amica del cervello, come un'alimentazione dove non c'è appunto la pillola o il cibo magico che ci cambia tutto. Peccato, esiste, peccato anche molto, se, dottor Erzegovesi, diciamo la verità, quando siamo un pochino giù, un po' di cioccolato fondente, barattolino, eccetera, qualche cosa che ti tira su anche a tavola si trova, Che tira su, ma lì ricordiamo sempre un tirare su, è importante che noi pensiamo a qualcosa che ci tiri su nel momento di sconforto, quindi qualcosa di più rapido e di più immediato, ma pensiamo anche a qualcosa che ci tiri su per lungo tempo. Ecco. E per lungo tempo allora lì dobbiamo pensare, non possiamo basarci su un solista, per quanto sia un solista bravissimo, dobbiamo basarci su un'orchestra, quindi su una, come diceva giustissimamente, su un insieme di componenti che vengono da sostanze, materie prime e quindi da ingredienti diversi. Quindi i fondamentali della dieta della mente felice, dottor Erzegovesi, quali sono? Primo di tutti, verdura. E verdura. Tre volte verdura. Cioè, non spaventiamo però gli amici che a sentire solo la parola verdura già storcono il naso. Perché esatto, già dicono la verdura, no, allora già basta. Lo dicono, la solita storia. Sono già abbastanza intelligente e felice, ecco. Quindi basta verdura. Ecco, questo però direi che è la prima cosa. Quando si parla di verdura non vuol dire mangiarsi le secchiate di verdura, ma vuol dire insistere moltissimo sulla varietà, perché per quanto buonissime possano essere le insalate e i pomodori, che rappresentano le verdure più consumate anche da persone che vogliono avere uno stile salutare, noi dobbiamo pensare che verdura vuole e deve voler dire una varietà molto maggiore, soprattutto in quelle verdure che, avendo un sottofondo di tipo amarognolo, possono essere meno immediatamente percepite come appetibili. Quindi mi raccomando tutta la famiglia dei broccoli, quindi broccoli, cavoli, diciamo tutta la famiglia delle crocifere è importantissima anche per il cervello, perché il sulforafano, che è un potente antiossidante che si occupa di regolare l'infiammazione, di prevenire alcuni tumori, ha anche un effetto in termini poi di ridurre la neuroinfiammazione e quindi di migliorare il funzionamento del cervello. Pensiamo alla famiglia delle cipolle, dell'aglio e di tutte le cosiddette liliacee, che è la famiglia a cui appartengono. In questo periodo io dico, mettiamo anche la mascherina, esageriamo anche con la cipolla e con l'aglio, dobbiamo preoccuparci meno di far sentire vero, il nostro alito. Il distanziamento fisico, ecco, lo dobbiamo tenere, quindi la cipolla e l'aglio aiutano. Questo è un momento per approfittarne e soprattutto per approfittare di quelle componenti antiossidanti, ma anche quelle fibre di cui sono ricche le liliacee, che sono fibre che vanno a nutrire al meglio i nostri batteri intestinali, quindi sono ugualmente fibre amiche del cervello, lo stesso possiamo dire per le radici, per altre cose. Quindi vuol dire, più che preoccuparci di riempirci di verdura, preoccupiamoci di mangiare verdure diverse ad ogni pasto. Idealmente ogni giorno ne dovremmo mangiare 3-4 tipi di verdure diverse. Ok, e del cervello è contento, la mente molto è felice. Contento, la seconda indicazione? Seconda indicazione è quando parliamo di proteine, proprio perché abbiamo detto la fibra è un po' un elemento chiave per il buon funzionamento del microbiota e quindi poi per un buon funzionamento del cervello, dobbiamo pensare a delle proteine ricche di fibre. Le uniche proteine ricche di fibre che noi abbiamo a disposizione sono i legumi. E quindi vuol dire i legumi a Capodanno vanno benissimo, ma dobbiamo cominciare gradualmente, se no la nostra pancia protesta, certo. Gradualmente cominciamo ad abituarci a mangiare i legumi almeno una volta al giorno. E questo, insomma, non è facile. Io comincio così fiducioso a vedere anche in piccole realtà di tavole calde, diciamo di posti che si occupano di pasti veloci per, sì, per chi lavora, comincio a vedere dei legumi più spesso di prima, e quindi che siano i piselli, i ceci, i fagioli, le lenticchie. Quindi teniamolo a mente. Teniamolo a mente per la nostra mente felice. Verdure, l'importante è variare, non conta tanto la quantità, ma la varietà. Legumi, cosa dobbiamo altro tenere a mente per la nostra mente felice, dottore Erzegovesi? La terza cosa proprio di questo così treppiede su cui appoggiare la nostra mente felice, consideriamo tutti gli alimenti che hanno un basso carico glicemico, e quindi quando noi pensiamo ai carboidrati che alcuni demonizzano, che alcuni glorificano, in realtà i carboidrati sono fondamentali nel darci energia, a patto che sia un'energia che venga assorbita con tranquillità. E quindi un basso carico glicemico vuol dire che io mangio un cereale integrale, che sia la pasta integrale o che sia il chicco, quindi il cosiddetto cereale intatto, come può essere il farro, l'orzo, il miglio, il riso, avrò un carboidrato che verrà lentamente assorbito. La lentezza nell'assorbimento degli zuccheri è una cosa a cui il cervello è particolarmente sensibile. Proviamo a mangiare un carboidrato bianco stracotto a mezzogiorno, vedremo che ci verrà un gran colpo di sonno dopo un'oretta dal nostro pranzo. Proviamo a mangiare stessa quantità e quindi assolutamente medesimo apporto calorico di un carboidrato a basso carico glicemico, quindi pensiamo un piatto di farro, un piatto di bulgur o un piatto di riso integrale, noteremo come la nostra capacità di rimanere lucidi, concentrati e per nulla assonnati cambia in maniera veramente drastica. Quindi non solo felice ma anche scattante, dottor Erzegovesi. Assolutamente scattanti e lucidi. La cosa più bella che mi viene raccontata con un cambio di regime di questo tipo, prima dell'umore, perché l'umore arriva un po' dopo. Dopo la cosa quanto? Che di solito, dopo una settimana, due. La cosa che invece si nota dopo 2-3 giorni è questa sensazione di caspita, però ho una testa che sta più sul pezzo, che riesce a stare concentrata sulle cose che faccio più a lungo, e questa è una sensazione che invita molto poi a poter dire vabbè, ma se sono lucido continuo a mangiare, ma così certo, quindi diventa un modo per continuare. Dottor Erzegovesi, ed è bellissimo, e nel suo libro lei lo spiega benissimo, è bello scoprire che attraverso l'alimentazione noi possiamo regolare l'umore e anche la nostra vita emotiva. Essere più pacifici, ecco, diciamo così. Non è una magia, dottor Erzegovesi. Cioè, è veramente, quando i proverbi hanno una saggezza, come sempre, straordinaria, adesso la ricerca lo dimostra. Quindi a tavola davvero per nutrire la salute, ma anche il piacere, ma anche la nostra vita emotiva, il nostro voler stare con le persone che abbiamo accanto nel modo migliore, tirare fuori anche i lati belli di noi e vedere anche i lati belli degli altri. Assolutamente sì, questa è la cosa più interessante, per cui possiamo veramente immaginare di cambiare molto proprio come persone con un atto che, se ci pensiamo rispetto a tanti atti che possono avvenire nel mondo è un atto molto semplice, che poi vuol dire siamo più in pace con noi stessi e con gli altri, ma ricordiamo anche che poi siamo più in pace col pianeta, perché dottor Erzegovesi, ma guardi un po' dove ci porta la nostra zucchina, a essere gentili con le zucchine potremmo cambiare il mondo. Dottor Erzegovesi, grazie per essere stato con noi, grazie della dedica. Vi ricordo il titolo del libro del nostro medicuoco quasi cuoco. Poi la prossima volta, questa volta abbiamo dato poche ricettine, ma la prossima volta la chiappo. La dieta quando volete. La dieta della mente felice, proprio freschissimo di stampa. Grazie, dottor Erzegovesi. Grazie a voi. Buona domenica. Grazie. Bene, adesso facciamo una pausa, ritorniamo subito dopo insieme e parliamo di una giornata importante. Si celebra proprio oggi, è la giornata mondiale senza tabacco. Ne parliamo anche alla bufala in tavola. A tra poco per scoprire la ragione. La bufala in tavola. Sigarette la mattina, la la la la la la la, sotto questa pioggia fina, la la la la la la la. Siamo tornati insieme, oggi è una giornata molto importante, la giornata mondiale senza tabacco, si celebra proprio oggi, domenica 31 maggio, una giornata che invita a riflettere sui danni del fumo e invita a smettere, soprattutto in questo periodo, nel periodo così delicato che stiamo vivendo dopo l'emergenza Covid, in cui abbiamo capito quanto sia importante tutelare la nostra salute e proteggerla, e in modo particolare anche quella dei polmoni. L'invito è: smettete. Molte persone non smettono, hanno paura di smettere, perché chi smette può in qualche modo prendere peso. Questo spesso però è un alibi per rimandare questa decisione. Non è una bufala, ma insomma è una notizia un pochino da riportare al giusto peso e nella giusta verità. E quindi ho chiesto aiuto alla dottoressa Chiara Veronese, farmacologa, consulente nutrizionale della pneumologia e centro antifumo dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno Nicoletta. Dottoressa Veronese, io l'ho invitata perché vorrei parlare con lei del timore che è spesso infondato di tante persone che fumano, legato al peso. Molte persone infatti resistono e non smettono di fumare proprio per paura poi di ingrassare. Questa non è una buona ragione naturalmente, ma dottoressa Veronese, anche le sarà capitato di avere delle richieste d'aiuto da parte dei pazienti, delle persone che si rivolgono al centro antifumo, che dichiarano appunto un po' questa preoccupazione di aumentare di peso. In realtà non tutti aumentano, dottoressa Veronese. Esatto, si può spegnere la sigaretta senza cambiare taglia, ecco. Sì, esatto, è spesso un alibi, infatti non tutti ingrassano e succede circa la metà delle persone che smettono di fumare, e la media dei chilogrammi presi è solitamente di 3-4 kg. L'entità dell'aumento dipende tra l'altro da diversi fattori come l'età, lo stato di salute, la storia tabagica del fumatore, ossia da quanti anni fuma, quanti anni ha fumato e quante sigarette al giorno è solito fumare, e dal fatto meno che si smetta comunque con una terapia. Infatti, smettendo o con i farmaci antifumo o con la terapia nicotinica sostitutiva, si ha una copertura della sintomatologia d'astinenza che caratterizza i primi due mesi, e quindi si ha ad esempio un controllo sull'aumento dell'appetito e sulla fame nervosa, quindi sono molti fattori, insomma. Ma dottoressa Veronese, perché si ingrassa? Perché qualche chiletto si mette in conto, poi si smaltisce facilmente nel giro di pochi mesi, ma che cosa succede? Succedono tantissime cose, sono veramente molti motivi. Innanzitutto la nicotina di per sé è un blando anoressizzante, quindi purtroppo è in grado di modulare la necessità ad esempio di fare spuntini fuori orario o di pasticciare, cioè sì. Quando una persona normale ad esempio viene voglia di un cioccolatino, un fumatore che accende una sigaretta, questa voglia di cioccolatino passa, quindi sì. Proprio l'effetto anoressizzante della nicotina. Inoltre sempre la nicotina riesce a stimolare la dopamina, che è il cosiddetto ormone del piacere, in una precisa parte del nostro cervello che è legata addirittura alla sopravvivenza, e quando viene a mancare abbiamo proprio il bisogno fisiologico di continuare a produrre questo neurotrasmettitore, questo ormone del piacere, e necessitiamo di uno stimolo alternativo per il nostro bisogno di appagamento, e il fumatore tende quindi a compensarlo con dei cibi che vengono chiamati comfort food. Che sono, certo. Ad esempio i dolci o i cibi molto grassi e palatabili, come ad esempio il cibo spazzatura. Inoltre, smettendo di fumare, si ha una percezione migliore dei sapori e degli odori, e quindi tutto riacquista il suo reale sapore, che spesso è mascherato dal fumo. Si ha un meccanismo di compensazione orale a causa della mancata gestualità, e quindi si tende anche a pasticciare nell'arco della giornata proprio per questa compensazione orale, con caramelle, cioccolatini, biscotti, grissini e tante altre cose. E infine, perché effettivamente c'è una riduzione del metabolismo basale. In media la nicotina infatti va a aumentare il metabolismo basale dal 5 al 15%, quindi diciamo a parità di introito calorico introdotto. Cosa vuol dire? Che se la persona mangia come prima, cioè mangia tanto quanto mangiava prima di smettere di fumare, comunque se si consuma meno inevitabilmente certo. Va incontro a un piccolo aumento di peso. Piccolo però? Piccolo, la media ecco. Abbiamo detto è sui 3-4 kg, e non tutti come abbiamo brava, detto. Brava, e non tutti, quindi mi raccomando. Dottoressa, ci sono però degli errori che possiamo individuare, così proprio non ci cadiamo dentro? Che cosa non dobbiamo fare o dobbiamo evitare di fare? Sì, sicuramente saltare i pasti non è la soluzione, anzi, mangiando regolarmente noi manteniamo attivo il nostro metabolismo basale, cioè il metabolismo a riposo, e possiamo prevenire anche una serie di disturbi che possono portare al sovrappeso. Se infatti andiamo a concentrare gran parte della quota di nutrienti in un solo pasto durante la giornata, si mettono in atto tutta una serie di meccanismi metabolici che portano a una scorretta gestione dell'energia, certo. E a una maldistribuzione del grasso, e purtroppo anche a una possibilità di insorgenza di insulinoresistenza. Quindi mai saltare i pasti, perché quello che andiamo a mangiare poi si accumula tutto, quindi non è la soluzione. No, non è una buona scelta. No, assolutamente. Poi c'è chi toglie i grassi, dice vabbè, tolgo il pane, grassi, pasta e pane, poi grassi. Ma dipende, grassi e carboidrati è un altro errore da non fare, perché i carboidrati sono comunque necessari come componente nutrizionale macromolecolare nel nostro organismo. Si può certo ridurli, ma soprattutto passare ai carboidrati integrali, che sono molto ricchi di fibre, che aiutano quindi a regolare i picchi glicemici e danno anche un senso di sazietà, così diciamo non si arriva a cena con una fame che ci verrebbe da sbranare anche il tavolo. Brava. Stessa cosa per i grassi, anche perché i grassi contengono comunque dei micronutrienti che fanno assolutamente bene alla salute, come esempio i grassi insaturi, quindi non devono essere eliminati, bisogna sceglierli, insomma, scegliere quelli dottoressa, giusti. Dottoressa, ma nei momenti di craving, di quella insomma che arriva, no? La bramosia per la mancanza di nicotina, che cosa si può sgranocchiare? Allora, ad esempio la frutta secca. Frutta secca che sì, è calorica, però se consumata con una certa, ad esempio 30 grammi al giorno, vanno benissimo. Sì, e sazia. Perché, sì, la frutta secca sazia perché contiene molte fibre. Quindi, come abbiamo detto prima, è in grado di modulare i picchi glicemici e quindi la sazietà. Quindi, ad esempio, andrebbe introdotta la frutta secca prima di pranzo o prima di cena, in modo tale da spezzare un pochettino l'appetito e non arrivare a tavola super affamati. Oppure si può anche sgranocchiare verdura cruda o frutta secca, perché proprio frutta fresca, scusate, perché essendo magari croccante aiuta anche a scaricare la fame nervosa. Oppure i bastoncini di liquirizia, soprattutto per la gestualità, però facendo attenzione ai fumatori ipertesi, perché la liquirizia è in grado di aumentare la pressione, quindi diciamo consigliata agli ipotesi, soprattutto adesso che arriva il caldo. Dottoressa, il messaggio finale quindi in questa giornata è? Allora, il messaggio finale è che l'aumento di peso non deve essere assolutamente un alibi per non smettere di fumare. Il fumatore dovrebbe pensare al periodo dello stop fumo come a, diciamo, un momento di cambiamento, di miglioramento e per affrontare anche uno stile di vita in generale più sano. Quindi sfruttare questo momento anche per iniziare a mangiare meglio e per fare movimento e attività fisica. E inoltre il messaggio assolutamente chiave è che le conseguenze negative di un piccolo aumento di peso, quindi 3-4 kg nel soggetto sano, sulla salute non sono assolutamente paragonabili a tutti gli enormi benefici dati in realtà dallo stop fumo. Dottoressa, grazie per essere stata con noi alla tavola della bufala in tavola. Buonissima giornata, buona domenica. Grazie buona a voi, buona domenica. Giornata mondiale senza tabacco. Un fiore in bocca può servire, non ci giurerei, ma dove voglio farfallina, non vedi che sono. In effetti assomiglia ad una farfallina, si trova proprio alla base del collo e questa farfallina può renderci la vita facile o, come si dice, può darci del filo da torcere. È una piccola ghiandola, così piccola ma così fondamentale per la nostra salute, per il nostro benessere, la tiroide. Questa è la sua settimana. Ne abbiamo parlato insieme al professor Pontecorvi proprio negli appuntamenti di Obiettivo Salute, quelli da lunedì al venerdì subito dopo il GR delle 12, ma torniamo a farlo oggi, torniamo a parlare di tiroide insieme ad una grande esperta che abbiamo in linea con noi, la dottoressa Serena Missori. Buongiorno dottoressa. Buongiorno e bentrovati. Grazie, endocrinologa. La dottoressa Missori ci aiuterà a capire quali sono i gusti a tavola della nostra tiroide, perché dottoressa Missori, la tiroide possiamo aiutarla a funzionare bene facendo anche delle scelte giuste a tavola, è così? Assolutamente sì, anche perché ricordiamoci appunto che la tiroide è fatta prevalentemente di proteine, quindi non dimentichiamoci di garantirci una quota proteica giornaliera che ne faciliti la funzione. Questo in generale se non abbiamo problemi di tiroide, ma se abbiamo problemi di tiroide ci possiamo trovare di fronte ad un'ipofunzione, quindi un ipotiroidismo, oppure un'iperfunzione, un ipertiroidismo. Ebbene, cioè con una tiroide che funziona troppo o funziona troppo poco? E ad esempio lo stesso alimento può sfavorire la tiroide che funziona troppo poco e sfavorire quella che funziona troppo. Ad esempio le crucifere, la rucola, adesso d'estate ne mangiamo tanta, i broccoli, i broccoletti, quindi che sono più tipicamente invernali. Perché? Perché sono tipicamente rallentanti la funzione della tiroide, però si fanno benissimo perché contengono degli antiossidanti che fanno prevenzione oncologica. Quindi in caso di ipotiroidismo, ovvero quando la tiroide funziona troppo poco, tendiamo a non mangiarli per paura che si rallenti ulteriormente, invece li possiamo consumare se li associamo al pesce ricco di iodio, che va a compensare appunto questo effetto un po' gossigeno delle crucifere. In caso invece di iperfunzione, quindi se funziona troppo la tiroide, vanno consumate con molta frequenza e senza associarli al pesce che è ricco di iodio, proprio per rallentare un pochino questa iperaccelerazione. Quindi lo stesso alimento, a seconda della ipo-iperfunzione, può assortire un effetto benefico per la nostra tiroide. Poi bisogna fare una piccola introduzione sul sale, perché per esempio si dice usate il sale iodato perché fa bene. Sì, fa bene se la tiroide funziona poco, se la tiroide funziona troppo rischia di accelerarla ancora di più. Quindi magari in caso di iperfunzione prediligiamo un sale non addizionato di iodio, quindi un sale integrale ma anche un sale rosa. In caso di ipofunzione va bene un sale iodato, almeno in uno dei pasti. Facciamo attenzione poi ai cereali, soprattutto quelli che contengono glutine, perché ci sono tanti studi recenti scientifici che ci dimostrano che il glutine può favorire la tiroidite autoimmune, i processi autoimmunitari a carico della tiroide, anche in assenza di malattia celiaca. Quindi se abbiamo una tiroide che soffre di tiroidite autoimmune, cerchiamo di ridurre un pochino l'introito giornaliero di glutine, magari andando a prediligere cereali o granaglie che non lo contengono, come tutti i tipi di riso, piuttosto che il grano saraceno, la quinoa, il miglio, il sorgo. Quindi cerchiamo di variare un po' di più l'alimentazione e di ridurre il grano tutti i giorni. Dottoressa, la fermo qui perché noi dobbiamo fare una pausa e poi la inviterei a prendere un caffè per parlare appunto di caffè, tè, bevande nervine. Hanno qualche relazione con il buon funzionamento o con la difficoltà a funzionare bene della tiroide? A tra poco. La bufala in tavola. Siamo tornati insieme alla dottoressa Serena Missori, stiamo parlando della nostra farfallina, di quella ghiandola posta alla base del collo, la tiroide. È una ghiandola molto importante perché regola e tiene sotto controllo un'infinità di cose: il peso, il battito cardiaco, il livello del colesterolo, la forza dei nostri muscoli, il benessere della nostra pelle, la vista, l'umore, tanto altro. Possiamo aiutarla a funzionare bene, a evitare che perda il ritmo, e cioè che funzioni troppo o che funzioni troppo poco. Anche quello che mettiamo a tavola può fare la differenza. Dottoressa Missori. Anche se abbiamo una tiroide che funziona, ma che tende a funzionare un po' di più, quando si dice abbiamo il metabolismo veloce, sì, ma siamo con i valori della tiroide che sono nel range della normalità, l'utilizzo magari eccessivo di caffè, tè e bevande che contengono caffeina può accelerare ulteriormente il metabolismo, quindi da una parte ci fa diventare anche degli enormi bruciatori di grasso, però ci può dare nervosismo, tachicardia, ipertensione, insonnia, quindi poi difficoltà a riposare, e questo si ripercuote negativamente sulla tiroide, che percepisce questo stato di stress e di iperaccelerazione, e quindi per compensare poi va a finire che rallenta. Quindi non dobbiamo mai esagerare, quindi uno o due caffè al giorno piuttosto, certo, un paio di tè, concediamoci, però ci sono persone che magari per far fronte allo stress e alla stanchezza arrivano a consumarne anche 5, 6, 8 tazzine al giorno, ed è veramente troppo. Non solo lo stile alimentare fa la differenza, anche lo stile di vita gioca un ruolo fondamentale. In modo particolare, dottoressa Missori, penso allo stress. Questi sono momenti un po' delicati, quelli che stiamo vivendo. Sicuramente abbiamo tante preoccupazioni, siamo stressati. Sì, cioè questo stress che stiamo vivendo sta quasi diventando normale, ma il corpo si è dovuto abituare. Fa sì che venga prodotto il cortisolo, che è l'ormone dello stress, ma che ci consente di sopravvivere, di sopportare lo stress, che ha un effetto di blocco sulla funzione tiroidea, perché rallenta l'entrata all'interno delle cellule di un ormone tiroideo che è il T3, quindi fa funzionare peggio gli ormoni in tutte le nostre cellule, quindi ci potremmo ritrovare ad avere magari un rallentamento della funzione della tiroide. Quindi è importante imparare a gestire lo stress, per esempio anche con l'alimentazione. Faccio un esempio pratico: se a cena consumiamo carne rossa piuttosto che pesce ricco di iodio, noi andiamo a rendere più difficoltosa la digestione, a dormire peggio, a far aumentare ulteriormente il cortisolo, che è l'ormone dello stress, e quindi certo, a rallentare anche la tiroide. Guardi, tutto il cerchio si chiude, dottoressa, perché proprio in apertura di trasmissione abbiamo parlato della dieta per la mente felice, che proprio con l'introduzione degli alimenti giusti ci aiuta anche a tenere sotto controllo lo stress, e in questo modo migliorano le relazioni, migliora la salute e migliora anche il funzionamento della nostra ghiandolina. Dottoressa, la ringrazio per essere stata con noi, l'aspettiamo prestissimo alla Bufala in Tavola. Buona giornata. Ormai abbiamo sostituito la seggiola con una poltrona, e questa poltrona è diventata una poltrona per due, e quindi c'è posto. Chiediamo ai nostri amici con cui chiudiamo la nostra puntata di accomodarsi: Alida Gotta e Maurizio Rosazza, chef food blogger, coppia in cucina e nella vita. Ciao, buongiorno a tutte e due, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Wow, gli appassionati di MasterChef, ma non solo, vi conoscono, vi apprezzano, vi seguono sui social. Ma prima, un po' come succede quando si è seduti a tavola, facciamo un po' due chiacchiere intanto che, come si dice, accendiamo i fuochi. Siete una coppia in casa e in cucina. Chi sta di più ai fornelli? Di la verità, Lida. Dipende un po' dall'orario. Le cucine non bastano mai. Voi siete due cuori a questo punto e due cucine. Esatto. Ma diciamo che abbiamo due atteggiamenti completamente diversi. Allora, io sono nella sindrome perenne della mystery box, che compongo cose dal... Alida invece ha più un approccio, come dire, più ingegneristico, quindi accademico, lei deve prepararsi accademico. A me la piace ricetta, la ricetta, voglio avere gli ingredienti. Io devo essere, voglio come si bene dice, cosa devo fare. Io devo essere, come si dice in milanese, foda i balla, che tecnicamente è un francesismo, in cui praticamente non posso entrare in cucina quando cucina Alida, perché lei ha bisogno veramente del suo spazio interiore, capito? Quindi devo andare a fare lunghe passeggiate col cani. Vedi, vedi, per questo hai i cani, che così vai fuori dalla cucina, Alida, lo mandiamo. Esatto. Senti, Alida, che cosa apprezzi della cucina di Maurizio? Apprezzo sicuramente la sua creatività, come detto, cioè il fatto che lui magari da quando non sappiamo che cosa cucinare ti tira fuori dei piatti incredibili, tipo l'altro giorno c'erano queste melanzane in frigo lì così abbandonate che avevo comprato. Povere. Avevo comprato io nell'attesa di fare un baba ganoush, qualche cosa, ha tirato fuori un piatto indiano pazzesco. Vedi, anche non so più Nicoletta, non lo so più replicare, però, perché io proprio faccio questi assoli estemporanei. Senti, sì, Maurizio, vedi, quindi è una garanzia, perché tu sei anche proprio il compagno risparmioso di quelli, apri il frigorifero, c'è un ingrediente solo e ti fanno un piatto che è straordinario. Sì, mamma mia. Sono sostenibilissimo, capito? Io ho la sostenibilità dentro fin da quando sono piccolo, perché dovevo arrangiarmi con la spesa che faceva mia mamma, che non era una grandissima gourmand, quindi immaginate cosa trovavo nel frigorifero. Questo è fantastico, perché sai che parlando con degli chef ho scoperto che avevano delle mamme che cucinavano poco. Allora, mamme all'ascolto, che cucinate poco e vi sentite in colpa perché magari non cucinate tanto bene, sappiate che potreste proprio essere voi una strada per i vostri figli, perché i vostri che figli bello, potrebbero proprio per questo, come la Marisa, guarda, ma anche la mamma di Alida, diciamoci la verità, come la Daniela, e come la Daniela, la Marisa e la Daniela, meno male, perché ci hanno portato Maurizio ad Alida. Allora, siamo alla tavola della bufala in tavola, è ormai quasi ora di pranzo, direi che ci siamo. Che cosa ci avete portato in tavola, chi ha cucinato per noi? Allora insieme, diciamo, insieme. Ma belli, mi piacete troppo. Partirei con il mio antipasto, classico. Quello lì buono che ti piace tanto. Dillo, e vai subito. Dillo. Hummus, che è l'hummus con il pane pita, che però non è l'hummus che uno è abituato a mangiare sempre. Hummus, cioè particolare, bello sostanzioso, cremoso, che è la mia ricetta che piace tantissimo sempre. Ma poi questa ricetta... Ma poi fa 50, questa ricetta 50, fa 50-50 tahine e 50% hummus. Diciamo che è una bomba calorica, ma è una cosa buonissima. Vedi, ma il segreto, dimmi Maurizio, segreto. Allora, vedi, Maurizio è più generoso, perché tu sei un po' più ingegnere, vedi che esatto. Che si prendono i ceci, li frulla, no? In realtà se uno prende i ceci e mette la stessa percentuale di tahina, la tahina è la crema di semi di sesamo sostanzialmente. Il limone, un po' di paprika, il sale e il trucco è l'acqua frizzante, cioè la tahina e i ceci vanno frullati con l'acqua frizzante molto fredda. Voilà. Questo rende l'hummus bello cremoso, anche di ottima qualità, guarda, un'acqua buonissima. Guarda, un'acqua ci sono buona, certo. L'ho visto Laura Vanossi che al di là del vetro con la Roby si sono guardate, la faranno, vero? Vero, sì, ho visto. Sono con le mascherine, ma gli occhi scintillano. Allora, questa l'abbiamo rubata. Mauri, allora, tu? Tocca a me. Allora, io vi consiglio, adesso che arriva la bella stagione, di frullare con un pizzico di sale dei pomodorini e l'anguria senza semi, ovviamente. E praticamente fate una specie di gaspaccio d'anguria con dentro due goccette di tabasco. E poi vi suggerisco di aggiungere dei capperi fritti, un goccio di aceto balsamico di quello buono e poi fate una bella cialda di parmigiano. Quella non sono capace. Te lo dico veloce, buttate una bella grattata di parmigiano su una padella antiaderente, la fate crostificare, la spezzate e verrà un gaspaccio davvero particolare. Il segreto è montarlo con un filo di olio in cui avete lasciato dentro magari una scorzetta di limone, un po' di timo, e vi verrà questo gaspaccio dolce, salato, meraviglioso, che buonissimo, mi accompagnerà. Confermo, l'età. Confermo. Chissà, io non voglio pensare quando voi due organizzate una cenetta romantica. Quanto dura questa cenetta? Mangiate bene. Non ci mettiamo tanto no. a cucinare, perché poi in due ore... In 4-4-8 lì. Però sì, devo dire che... E devo dire che è bello, eh? Devo dire che sì. Poi, senti, ma questi capperi fritti, io vado pazza per i capperi. Non avevo mai pensato che si potessero mangiare anche allora, fritti. Prendi, dissalali, asciugali bene e poi friggili, si aprono un po', diventano delle fiore, piccole, sì, croccantissime, eccetera. Ci sono anche quelli lunghi, potete provare a friggere anche quelli lunghi. Daranno croccantezza, ma anche un po' di sapore al piatto. E poi le goccette di aceto balsamico, se ci pensi, sembrano i semini dell'anguria. Quindi uno dice, ops, ho sbagliato, invece prende anche un goccio di... acciuidolo. Eleganza. Ma tornate a trovarmi? A trovarci? Ma quando vuoi, tra l'altro, posso dirti una cosa? Io voglio essere onesto e Alida può confermare, io H24, la radio del Sole 24 ore, dalla mattina alla sera. Sempre. Per questo sei così creativo. Intanto grazie, buona domenica, mente felice a tutti, anche con i capperi fritti di Maurizio Rosazza e la ricetta naturalmente di Alida Gotta. Grazie, buona giornata a entrambe, buona domenica. Noi invece ci sentiamo domani, subito dopo il primo GR del palinsesto di Radio 24, 6:10. Buona giornata.